Sì. Allora, buonasera a tutti. Stasera parliamo dei concerti che hanno in qualche modo segnato un angolo, una pietra angolare nella storia della musica. Non necessariamente saranno tutti i più importanti, perché è ovvio che la scelta è vastissima, quindi diciamo che alla fine c'è una certa soggettività nella scelta dei concerti e un'oggettività, perché chiaramente ci sono dei concerti che non sono, che sono imprescindibili al di là dei gusti personali. Si farà una lunga camminata, si spera abbastanza veloce, dagli anni 60 fino a 2 anni fa, quindi sarà una cosa abbastanza impegnativa per René, soprattutto che dovrà mettere un sacco di video, perché i video sono tantissimi. Sui video vi dico già fin da adesso una cosa: siccome molti video saranno degli anni 60 e 70, sono stati girati in Super 8 e poi riversati in digitale, la qualità è veramente... Però, nonostante sia una qualità brutta, ho preferito lasciare questi video un po' così traballanti in certi casi, proprio perché ci testimoniano un'epoca, un momento, e ce lo fotografano in quel momento lì, e mi piaceva così. Partiamo subito e partiamo con un concerto che è di quelli che non si può negare che hanno fatto la storia, ed era il 25 luglio, una domenica, a Newport, nello stato di New York, ed era il Newport Folk Festival che si veniva celebrato tutti gli anni in questa frazione di New York. E per 2 anni la stella di questo festival era stato Bob Dylan. Anche il terzo anno il nome più atteso era Bob Dylan, il quale però qualche mese prima di questo festival aveva fatto uscire un album dove mischiava sia la parte elettrica che la parte più prettamente folk. Bring It Back Home era l'album. Quando si presenta sul palco il primo giorno, il sabato 24, parla con il suo organista e gli dice che al Cooper e gli dice che avrebbe avuto piacere il giorno dopo, quando ci sarebbe stata la sua esibizione, di avere una band a supporto. Questo ha fatto sì che ci sia stato un po' di trambusto, perché la line-up del folk festival invece erano molto intransigenti e vedevano nell'elettrificazione del suono proprio l'anticristo di quello che era la loro filosofia, e non avevano nessunissima intenzione di concedere questa deroga a Bob Dylan, il quale se la prende tranquillamente e sale sul palco con Mike Bloomfield alla chitarra, Sam Lay alla batteria, Jerome Arnold al basso, Cooper all'organo e Barry Goldberg al piano. Per la prima volta l'elettrico sale sul palco del Newport Folk Festival. Però fa pochissime canzoni, si fa un set molto breve, e qui comincia quella che è un po' la leggenda, che dice che sia stato accolto da fischi, da cose, da proteste, sì, cose di questo genere. In realtà non è andata proprio così, perché molti hanno invece apprezzato, soprattutto tra gli altri artisti, molti dopo l'esibizione hanno detto, magari non proprio il giorno dopo un po' di tempo, però hanno ammesso che Bob Dylan in quel momento stava vedendo oltre il panorama del stretto del momento e stava proiettando la musica in quello che sarebbe stato il suo futuro. Quindi gli hanno riconosciuto questa veggenza nel vedere il futuro della musica, però la leggenda vuole che appunto sia stato preso a fischi. Sembra che invece i fischi fossero legati più che altro alla brevità del set. No, anche all'audio. L'audio che era pessimo e la brevità del set, cioè c'è stato oggettivamente poco, ha fatto 4 canzoni, quindi non è che proprio si sia speso tantissimo. Quello che invece c'è stato ed è stato molto forte è stata la protesta il giorno dopo da parte di altri organizzatori del festival, che hanno appunto stigmatizzato questo atteggiamento di Dylan nel voler portare l'elettrico per forza sul palco. Addirittura si parla di Pete Seeger che volesse tagliare i cavi far star zitto questo tipo troppo rumoroso. In realtà, Dylan in quel momento stava veramente vedendo il futuro della musica e l'aveva portata in un contesto che si sarebbe dovuto comunque evolvere. E noi adesso ce lo sentiamo, non ce lo vediamo perché non ci sono filmati. Con i sottotitoli. No, c'è mi ha il fatto video, vedere. c'è il C'è il video. video? C'è? Ah, sì, no, no, c'è. Senza sottotitoli. No, no, c'è, quello l'ho trovato. Thank you. riuscita abbastanza. Bellissimo, a lui. Sì. Ottima la scelta. Lui si tocca. C'è un DVD con tutte le sue partecipazioni. Dei Newport. Facciamo un salto nel temporale, ma di poco. Si salta solo 2 anni e arriviamo nel 1967 a giugno, il 16 e 18 giugno. Perché queste date sono importanti? Perché sono il Festival di Monterey, che non è forse famoso come Woodstock, che viene ricordato da tutti, però prima, se non ci fosse stato Monterey, non ci sarebbe stato Woodstock. Quindi gli diamo questa palma. È il culmine dell'estate dell'amore, del momento dell'utopia hippie, e questo festival nasce proprio da quest'utopia hippie. Quello che è interessante di questo festival è che viene organizzato da un manipolo di persone, come saranno poi anche gli altri, però in maniera perfetta. Spendono per l'organizzazione Alan Pariser, Benny Shapiro, i Mamas and Papas entrano subito nell'organizzazione, Paul Simon dà il suo apporto, l'ex addetto stampa dei Beatles, Derek Taylor, si mette a disposizione di questo gruppo di lavoro e viene creato un comitato organizzatore di cui fanno parte anche Beach Boys e Beatles stessi. Tutta questa organizzazione fa sì che i 2 giorni di Festival di Monterey possano portare sul palco i più grandi nomi della scena musicale americana in quel momento. E oltre già citati ci sono Simon e Garfunkel, ci sono i Grateful Dead, e Steve Miller Band, Otis Redding, Buffalo Springfield. Quindi il meglio della musica americana di fronte a un pubblico che è arrivato da tutta l'America, e non ci sono incidenti di nessun tipo. Sembra di dire una banalità, però vedremo che non sarà così tutte le volte, e quindi gli incidenti, gli inghippi, gli intoppi ci sono stati in tutti i festival, anche a Woodstock ce ne sono stati vari, e il fatto che questo sia andato perfettamente liscio, già questo farebbe storia, ma non basta. Questo festival segna la consacrazione definitiva degli Who. Allora, qui c'è stata una piccola cosa. Pete Townshend, quando vede la scaletta, vede che loro avrebbero suonato dopo Jimi Hendrix, che era già comunque sia Jimi Hendrix, al che comincia a fare pressioni sull'organizzazione per farsi mettere prima di Jimi Hendrix. Alla fine chiedi, rompi, ce la fa e riesce a fare il proprio, riesce a portare di cu prima di Jimi Hendrix sul palco, e danno vita a una spettacolare esibizione che finisce ovviamente con la distruzione degli strumenti. Al termine di questa esibizione è Brian Jones che presenta Jimi Hendrix al pubblico, il quale farà sì una grande esibizione, un'infuocata esibizione, perché sarà quella in cui darà fuoco alla chitarra, però comunque sia rimarrà lievemente in ombra rispetto agli Who, che avranno un successo veramente stratosferico. Altra pagina importante di questo festival è la presenza di Janis Joplin. Fino a questo momento Janis Joplin era stata una grande cantante, una grande artista, ma si era, diciamo, limitata a concerti di dimensioni piccole, non aveva mai affrontato il grande pubblico. Qui si trova per la prima volta di fronte a una marea di persone e le incanta, le tiene in pugno, tanto che è quella a cui vengono chiesti più bis al termine della sua esibizione. Quindi di cose su Monterey effettivamente ce ne sono. I motivi per cui Monterey è importante ci sono e sono tanti. Non ultimo è il fatto che comunque sia apre la strada a questo tipo di happening, dove tanti artisti si alternano sul palco per ore e ore e ore di musica di fronte a un pubblico sterminato, cosa che sarà poi alla base di Woodstock, che facendo un salto di ulteriori 2 anni si svolge tra il 15 e il 17 agosto del 69. I primi a essere ingaggiati sono i Creedence Clearwater Revival, sono i primi che vengono portati dentro a Woodstock, anche perché si erano sempre impegnati nel movimento hippie, erano stati molto attivi. Il problema di Woodstock è che comunque sia l'organizzazione non è stata proprio perfettissima, un po' per colpa, diciamo, diciamo, politica. Un po' per colpa dell'organizzazione stessa. Inizialmente, infatti, loro avevano pensato di farlo a San Francisco. San Francisco non gli dà il permesso, lo devono fare a Bethel. E questo, bene o male, crea un po' di disagio nell'organizzazione e nell'organizzazione proprio fisica del festival. Altra cosa che è stata contestata a questo festival è che i biglietti erano abbastanza cari. Costavano tra i 18 e i 26 dollari, che sono un po' tanti per l'epoca. Comunque, diciamo che gli americani comunque sia vanno, e vanno in tanti, più di quelli che si aspettavano. Molti più di quelli che si aspettavano, creando, diciamo, delle file, degli intasamenti, dei problemi sulla viabilità intorno a questo posto che probabilmente non era adattissimo per il festival, e questo creerà dei disagi non solo al festival, che vede arrivare il pubblico a scaglioni, li vede comunque arrivare un po'. Si parla di mezzo milione di persone, non è che parliamo proprio di pochissime persone. Problemi problemi con i bagni, problemi con la pioggia che non manca, e quindi il fango, e quindi tutto quello che l'immaginario collettivo associa ormai a Woodstock, che sono queste immagini appunto di acqua, di fango, di melma. Però, nonostante questo, effettivamente il parco di Woodstock vede passare tutta la musica americana di questi anni. Ritroviamo Janis Joplin, Grateful Dead, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Ravi Shankar, tutti, fino alle che si esibiscono durante tutti questi giorni, fino all'esibizione storica di Jimi Hendrix, che avviene alle 6 del mattino davanti ai pochi che erano rimasti tenacemente lì sotto il palco a aspettarlo. E insomma, se lo sono guadagnato quello che hanno visto un grandissimo Jimi Hendrix, forse al suo meglio nell'esibizione. L'ultimo di questi festival che incontriamo è sempre nel 69, e è il festival di Altamont in California. Si chiama Altamont Free Concert e nasce da un'idea dei Rolling Stones. Doveva essere inizialmente il festival dell'altra costa, poi si trasferisce a Altamont. Perché i Rolling Stones hanno questa idea? Sostanzialmente loro facevano questa tournée americana e sono stati fortemente contestati per il prezzo dei biglietti dei concerti durante la loro tournée. Allora, per guadagnare in immagine, decidono di fare questo festival gratuito di musica, portando di nuovo sul palco una nuova Woodstock, così la lanciano, e questo bellissimo momento in dicembre che dovrebbe essere la loro risposta a Woodstock. In realtà non andrà così. L'organizzazione sarà veramente pessima. I nomi c'erano, da Crosby, Stills e Nash, Jefferson Airplane, Santana, quello i soliti, The Flying Burrito, Crosby, Stills, Nash e Young ancora. Subito aderiscono all'iniziativa, l'utopia hippie comunque continua a essere l'idea portante, però l'organizzazione non è all'altezza della cosa. Anche qui la location viene stabilita perché non gli viene dato quello che chiedono come posto, e c'è la, diciamo, la scelta degli organizzatori è quella di affidare la sicurezza alla banda di motociclisti Hells Angels, che erano pagati ciascuno $500, che è tanto per l'epoca, ma in alcolici, che non è proprio una grande idea questa. Quindi mettiamo gli Hells Angels, che sono già di per sé maneschi, ubriachi, fradici a quel punto, perché comunque ci avevano da spendere $500 in alcolici, e in più che avevano apertamente dichiarato di essere contrari al movimento hippie e agli hippie. Quindi proprio erano le persone giuste dal posto giusto. La sicurezza peraltro non sarà garantita neanche, cioè l'organizzazione farà veramente pena in questo concerto, tanto che quando Mick Jagger scende dal suo elicottero per fare per arrivare nell'area del concerto, viene avvicinato da un ragazzotto giovanissimo di 18 anni che gli sferra un pugno sul naso senza problemi e nessuno lo ferma. Il motivo per cui gli ha sferrato questo pugno sul naso è perché la fidanzata di questo ragazzo era innamorata di Mick Jagger. Giustamente. E lui era geloso e senza che nessuno lo argini minimamente arriva e gli dà un pugno. E urlandogli ti odio, cioè parte ti odio e pa, gli dà un pugno. Quindi non è che questa sicurezza fosse, perché ci vanno a picchiare. Il palco era talmente basso, era stato costruito talmente in basso che potevano tranquillamente salirci dalla platea, le persone potevano tranquillamente salirci sopra, cosa che faranno a più riprese tirando giù perfino gli artisti. Succede a Martin Bailin dei Jefferson Airplane, che viene tirato giù dal palco perché all'ardire di protestare, perché gli Hells Angels durante la loro esibizione stavano menando con stecche da biliardo tutti gli hippie che trovavano e giù botte come... È veramente un delirio. Si concluderà questo festival con i Santana, che fanno neanche metà della loro scaletta. I Jefferson Airplane, che appunto c'hanno uno ricoverato perché viene tirato giù dal palco in malo modo. I Grateful Dead, che decidono di non esibirsi proprio perché prima parlano con i Santana, che dicono guarda, non è il caso, non è serata, e quindi dicono guarda, noi lasciamo perdere. I Rolling Stones faranno tutta la loro scaletta, 15 pezzi, però durante la loro esibizione succederà l'episodio più grave per cui questo festival viene ricordato, che è l'omicidio di un ragazzo di 18 anni, il quale, non proprio lucidissimo va detto, diciamo che era sotto effetto di droga e alcol, e visto il clima che c'era, prende una pistola e va verso il palco e spara anche un colpo per andare sotto palco. Quegli altri chiamati a nozze lo circondano e lo accoltellano. Saranno poi assolti perché comunque sia il clima non è proprio quello, diciamo, pro hippie. Quindi poi alla fine l'accoltellatore sarà assolto dal tribunale per legittima difesa, perché comunque questo ragazzo aveva sparato e quindi lui ha difeso. Ci sarebbe tanto da dire, ma non... È una tempesta emotiva. Sì, è una tempesta emotiva, la preciso. È la classica tempesta emotiva. E così diciamo che Meredith Hunter non riceverà giustizia fino in fondo, ma questo ci saranno altri 3 morti, 2 per le botte prese durante il concerto, il terzo perché è affogato in una canaletta di scolo. Su come sia finito in questa canaletta di scolo no, nessuno lo sa. Di fatto questo concerto semplicemente segna la fine dell'estate dell'amore, della stagione dell'amore, diciamo, perché l'abbiamo fatta iniziare nel 67, la stagione dell'amore qui si può dire completamente finita. però questo diciamo che è quello che è successo a Altmont. Ci vediamo un pezzettino per ogni festival, così da avere un pochino di idea di quello che succedeva in questi concerti. Questo mi splitting, you know, if those cats, if you can, we're splitting, man, if those cats don't stop beating everybody up inside. I want them out of the way, man. I don't like you. Hey, people, hey, people, come on, let's be cool. People, please, there's no reason to hassle anybody. Please don't come in. If you move back and sit down, we can continue, and we will continue. Can you roll back on that, David? Sure. Non era un bel clima quello lì, effettivamente, era abbastanza pesante. In più, beh, chiaramente i feriti non li hanno neanche contati da tanti che erano. E in più l'organizzazione aveva avuto la brillante idea di risparmiare su alcune spese, cioè medici, infermieri e poliziotti. Cioè geni, questi sono stati dei geni. Nel 94 e nel 99 ci saranno ulteriori due edizioni di Woodstock, che però diciamo non lasciano il segno, porteranno sì sul palco quelle che sono le realtà importanti della musica, e saranno dei grossi spettacoli, eccetera, però sono più i problemi che si sono verificati che non quelli, sono passati più alla storia per i problemi che non per l'importanza dello spettacolo. Nel 94 in particolare saranno sommersi da una valanga di fango, perché per l'ennesima volta, rispettando la tradizione, e nel 99 ci saranno degli incidenti dovuti a tafferugli vari e sempre fango, però questa volta che proveniva dalle latrine, quindi non credo neanche fosse molto pulito. Io ricordo una grandissima esibizione di Green Day a quello... suon di fango addosso, sì, al pubblico, sì, sì, il pubblico che incettava, sì, hanno giocato a lungo questa cosa col fango. L'esibizione di Green Day è passata alla storia proprio perché hanno giocato col fango. Rimaniamo invece su questi anni. Il prossimo Woodstock? Allora, il prossimo Woodstock ci sarà un concerto, le ultime notizie danno che ci sarà quest'anno un concerto, però non ci sarà coinvolto nessuno degli organizzatori originali e nessuno degli artisti originali, quindi proprio non so cosa sarà. Per ora non hanno neanche pubblicizzato l'evento, quindi credo che sarà una cosa sottotono. Oddio, su Virginia invece hanno detto che ci saranno anche una parte del vecchio. No, è confermato che non ci sarà nessuno del vecchio. Ah, nessuno allora, dello notizie, storico, via diciamo di quello storico. Allora, ritorniamo agli anni sempre 60 per capire un po' quello che stava succedendo in America in quegli anni. Bisogna confrontarsi con questo cambiamento dall'utopia hippie a quello che è poi un irrigidimento dell'America nei confronti di questa utopia. Il primo episodio che incontriamo, intanto diciamo di chi parliamo, dei Doors. I Doors hanno due incontri con la legge sul palco. Il primo è nel 67, ma è diciamo molto blando, nel senso che non è blando perché è la prima volta che viene interrotto un concerto per arresto del cantante, e questo ce lo fa diventare un concerto che comunque sia è una pagina di storia. Però è blando perché poi alla fine, quando vediamo l'episodio, è poca roba. Il secondo invece avviene due anni dopo a Miami e è un po' diverso, sempre Doors sono protagonisti. Nel primo concerto è dicembre del 67, i Doors si esibiscono a New Haven e praticamente durante un lungo pezzo strumentale dei Doors, Jim Morrison si allontana dal palco con una fans e va in bagno. Si apparta in bagno con la fans, con la fan, e il che di per sé non sarebbe niente, però un poliziotto li scopre perché non si erano proprio appartati bene, un poliziotto li scopre, ma è una storia quasi da liceo, no? Cioè praticamente li trova, che fate? E Jim Morrison, dubito che l'abbia detto col tono del liceo, ha detto niente, non facciamo niente. Non credo gliel'abbia detto proprio in maniera così tranquilla e amichevole, perché il poliziotto tira fuori uno spray al peperoncino e glielo spruzza addosso. Chiaramente l'idillio è interrotto e Jim Morrison torna sul palco. Il tempo di tornare sul palco con ancora i residui dello spray al peperoncino addosso, e lo sceriffo, il tenente che faceva comandava diciamo la sicurezza del locale, si presenta sul palco per arrestarlo per aver insultato il poliziotto. Sarà successo, non sarà successo, lo sanno il poliziotto e lui, non lo sa nessun altro. E a quel punto Jim Morrison, che non è senz'altro uno che rimane indietro, prende il microfono, lo mette in mano al tenente e gli dice: va bene, se hai coraggio dillo ora a tutti quello che vuoi fare. E il tenente dice: va bene, ti dichiaro in arresto. E a quel punto lo prende e lo porta giù dal palco. Lo arresta, però diciamo che la cosa poi finisce lì, nel senso che sì, ok, viene arrestato, nascono dei tafferugli, perché quando succedono queste cose sempre il pubblico protesta, si sente chiamato in causa dal fatto che il tenente lo dichiara in arresto di fronte a tutti. Nascono dei tafferugli, tra il pubblico ci sono anche una giornalista di Life, Tim Page, che è appena tornato dal Vietnam, il fotografo Tim Page, a cui dobbiamo alcune delle foto più belle del Vietnam, altri critici musicali, vengono tutti arrestati. I giornalisti e Tim Page vengono rilasciati perché non ci sono accuse nei confronti loro. Mentre per Jim Morrison va meno bene, però con una cauzione di $1,500 se la cava e ritorna libero, e la cosa viene cancellata dalla sua fedina penale. Quindi poi alla fine non è stata una cosa, diciamo soprattutto il fatto che viene arrestato sul palco. Peraltro Jim Morrison nel 70 prenderà questo episodio come spunto per la canzone Peace Frog. Nel 69 invece sarà un po' diversa la cosa, sarà un po' più pesante e avrà ripercussioni più pesanti proprio nella carriera dei Doors. Allora, qui siamo nel momento in cui Jim Morrison sta facendo pesante abuso di droghe e di alcol. Quella sera lì a Miami, è il primo marzo del 69, lui si trova in uno stato di alterazione abbastanza pesante. In più si presenta in ritardo al concerto perché è innervosito pesantemente dal fatto che ha litigato con la fidanzata Pamela. E questa diciamo combinazione di cose fa sì che lui non abbia voglia di cantare, ma ha voglia di predicare, ha voglia di essere quel politico erotico che ha dichiarato alla radio di essere pochi mesi prima. E no, niente. Ti piace politico erotico? Lo so che ti piace. Sale sul palco, guarda il pubblico, 15.000 persone che sono stipate in un'ex aviorimessa dove ce ne potevano stare solo 10.000. Quindi già anche lì il pubblico non è proprio messo nella condizione migliore per affrontare un concerto, diciamo affrontare i malumori di un artista sul palco. E lui si mette, la prima cosa che dice è: branco di idioti siete un branco di idioti del cazzo che vi fate comandare. E così dà il saluto al pubblico. Di lì comincia a delirare e a fare una serie di prediche sul fatto che dovevano assolutamente cambiare il mondo, che non dovevano fare nessun tipo, non dovevano accettare l'ordine precostituito. Insomma, comincia a delirare nel suo mondo, che a quel punto era abbastanza pesante. La band cerca di riportare il concerto a concerto, a suonare. Lui non ha intenzione di cantare, loro suonano e lui parla e continua a raccontarsi, a raccontare. E però nel momento, per esempio, che si toglie la t-shirt, il pubblico va in visibilio, cioè veramente scoppia a fine mondo in questa aviorimessa strapiena, cosa che preoccupa comunque le forze dell'ordine, che sono presenti in massa in questo posto. E probabilmente c'è uno scambio fra Jim Morrison e le forze dell'ordine, tanto che prende il cappello di un poliziotto e lo butta al pubblico. Fino qui è la storia. Poi comincia la leggenda. La leggenda vuole che a quel punto Jim Morrison si sia tolto anche i pantaloni, si sia denudato di fronte al pubblico, abbia fatto vedere i propri genitali. E che la polizia sia intervenuta per cercare di far sì che questo non succedesse. Non solo, ma secondo la polizia, perché qui adesso le versioni si dividono. Secondo la polizia, Jim Morrison, da quel momento in poi, diciamo, ha un atteggiamento molto pesante nei loro confronti, li insulta. Non solo, ma simula un atto erotico con il chitarrista. Loro l'hanno sempre negato, sia il chitarrista sia Jim Morrison, loro l'hanno sempre negato, hanno detto no, se lo sono sognati, non è vero, non è successo niente di tutto questo, forse hanno interpretato male qualcosa, non lo sappiamo. Comunque, quando appena scende dal palco, non prima, non come è successo a New Haven che lo arrestano sul palco, ma come scende dal palco, viene arrestato. C'è un motivo per cui viene arrestato nel momento in cui scende dal palco, perché avevano paura che succedesse come a New Haven, che ci sono stati poi dei tafferugli tra pubblico e forze dell'ordine, che ci sono poi cariche, feriti e cose del genere. Quindi per non creare problemi col pubblico lo fanno dopo, lo arrestano e lo portano in carcere e viene condannato a 6 mesi di carcere, che non farà perché pagherà la cauzione di $500. Perché è cambiato il clima? Da cosa si vede che è cambiato il clima? Sostanzialmente Jim Morrison, i Doors, più che Jim Morrison in persona, dicono allo sceriffo e di conseguenza alla città di Miami che avrebbero fatto un concerto gratuito di risarcimento alla città. Un concerto gratuito dei Doors in questo momento, che i Doors sono al massimo del loro splendore, effettivamente era un bel regalo. La città di Miami rifiuta questo patteggiamento e dice no, ti fai il carcere che lui non si farà, perché il suo avvocato ricorre e quindi l'iter giudiziario si allunga in maniera chiaramente forte, e lui nel frattempo si trasferisce a Parigi, così ci mette un continente di mezzo e dice siamo a posto. Però questa cosa qui peserà sempre sulla sua... Poi per sicurezza muore. Quindi. Poi per sicurezza, se... per massima sicurezza muore, però peserà sempre sulla sua vita. Non solo, ma questo concerto, questa vicenda sarà un colpo pesantissimo per i Doors, perché dovranno annullare, cioè si vedranno, non dovranno, si vedranno annullare tutti i concerti in America. Da quel concerto in poi se li vedranno annullare tutti. Quindi diciamo che sia andato in America comunque sia per non fare carcere, però è andato anche in America, perché in Francia, scusate, perché comunque in America non avrebbe fatto più niente. È cambiato il clima, tanto che Miami farà una manifestazione della decenza, si chiamerà, della decenza, come quella di Verona, come quella, una cosa di questo genere, che tanto diversi, no, assolutamente, tutto sommato diciamo che corsi e ricorsi della storia stiamo vedendo, e a questa manifestazione della decenza che si svolgerà a Miami parteciperà in modo, diciamo, epistolare anche il presidente Nixon, mandando la sua adesione via lettera. E questo, diciamo, la dice lunga su quello che stava succedendo in America in questo momento. Vediamoci un po' di Doors. Questo è l'arresto. World on fire. Taxi from Africa, the Grand Hotel. He was drunk. A big party last night. going back in all directions, sleeping these insane hours. I'll never wake up in a good mood again. I'm sick of these stinky boots. Ma lui proprio il massimo del cantato è questo, cioè proprio rimaniamo in carcere, però in questi anni, però ci andiamo per un altro motivo in carcere, ci andiamo con Johnny più nobile. Più nobile, ci andiamo con Johnny Cash. Allora, ci andiamo con Johnny Cash perché a lui va il merito di aver fatto il primo concerto in carcere per decarcerati. È il 13 gennaio del 68, quindi siamo sempre in questi anni, però è tutto un altro tipo di clima, di ambiente. L'idea è del produttore di Cash, Bob Johnston, che oltre a rimetterlo in piedi da un punto di vista... Stavo facendo una cosa terribile, ma appoggiavo... Oltre a volerlo rimettere in piedi da un punto di vista umano e fisico, facendolo uscire dalle sue dipendenze, decide che è il momento di rilanciarlo. E per rilanciarlo ha questa idea di farlo suonare in carcere e di registrare questi live per poi riversarli su disco. L'idea inizialmente lascia la casa discografica un po' perplessa, però Johnston ha dei buoni argomenti e gli fa capire che è una buona opportunità. Ha avuto l'ok della casa discografica che questo disco sarà prodotto. Johnston scrive a due carceri, Folsom e San Quintino. Dice, speriamo che rispondano. A rispondere sono tutti e due, ma primo arriva Folsom. Molti si sono chiesti perché Folsom è stato il primo concerto in carcere, semplicemente perché è arrivato prima con la risposta, non c'è un motivo per cui hanno scelto Folsom piuttosto che San Quintino. Quindi diciamo che il caso ha voluto che Folsom fosse la prima data in carcere, successivamente farà anche quella di San Quintino. La cosa che diciamo è più... se vogliamo, folcloristica, se però interessante, è che il giorno prima del concerto a Folsom, il cappellano del carcere va da Johnny Cash e gli porta un'audiocassetta con registrata una canzone scritta da un carcerato. E questa canzone, in genere Johnny Cash non ama molto ascoltare le cassette che gli vengono date così, però in questo caso c'è il cappellano che gli porta la cassetta e dice ma sì, sentiamola, se ne innamora e la fa inserire nella scaletta del concerto del giorno successivo. E poi sarà una canzone che diventerà una delle sue pietre miliari, che è Greystone Chapel, e diventerà un suo classico, e noi ce la vediamo, anche se non abbiamo, ce l'ascoltiamo, perché non ci sono immagini del concerto dentro il carcere, ma solo le registrazioni però audio. Però abbiamo San Quintino, se lei vuole. Però ci abbiamo San Quintino. Se lei vuole, ce l'abbiamo. Però, allora... Un pezzetto. Any of the guards are still speaking to me, can I have a glass of water? Aspetta. Questo... è a Folsom. E siccome io sono filologica, okay. Voglio Folsom. Inside the walls of prison, my body may bleed, but my Lord has set myself free. There's a gray stone chapel here at Folsom, a house of worship in this den of sin. Wouldn't think that God had a place here at Folsom, but he saved the soul of many lost men. Now this gray stone chapel here at Folsom, 100 years old, made of granite rock. It takes a ring of keys to move here at Folsom, but the door to the house of God is never locked. Visto il successo di Folsom, replicano a San Quintino, e di San Quintino ci sono anche le immagini che ci fai vedere. È sempre carcerato, sì. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. Long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through, and I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Succedeva che i Beatles decidevano di esibirsi su un tetto. Allora, sostanzialmente la vicenda del concerto sul tetto è andata in maniera abbastanza semplice. Siamo nel 69, in pieno inverno, siamo a gennaio del 69, i Beatles devono registrare, vogliono, un documentario che sarà Let It Be. Inizialmente l'idea era quella di farlo sul Tamigi, di fare questa registrazione sul Tamigi, che sarebbe stata suggestiva, bella, avrebbero visto tutta Londra. Però giustamente i produttori fanno presente che comunque era un'idea già sfruttata, che non sarebbe stato niente di nuovo. Allora l'idea del regista è quella di farla sul tetto della Apple Music, la casa discografica Apple Music, e loro vanno senza nessun tipo di, diciamo, di organizzazione particolare, cioè avevano il loro set sul tetto. Non avevano fatto i conti con il passaparola, che invece è stato immediato a Londra, nonostante non esistessero né social network, né telefonini, né niente. Tutta Londra si riversa sotto questo palazzo, creando praticamente la paralisi completa di Londra in quel giorno. Tanto che deve intervenire la polizia, e quello che doveva essere un set bello lungo dei Beatles si riduce a 5 canzoni, perché gli dicono: guardate, non è il caso, cioè dobbiamo mandare via queste persone. E questo è un po', diciamo, quello che è successo su quel tetto. Ma su quel tetto è successo anche un'altra cosa: è successo che dopo mesi di screzi, di litigi, di problemi fra i quattro Beatles, lì hanno ritrovato una sintonia che non avevano più da tempo, e chi ha assistito, e noi che lo possiamo vedere attraverso appunto il documentario, vediamo dei Beatles veramente al massimo del loro splendore. Sono affiatati, scherzano fra loro, ridono, hanno un buon rapporto fra di loro, cosa che era impensabile fino a poco tempo prima. Tanto che il produttore ha quasi l'idea che si possa fare qualche data anche nei locali, cosa che invece non prenderà mai forma, e questa sarà, purtroppo per noi, l'ultima esibizione pubblica dei Beatles. E questo ne fa la nostra pagina di storia. Done it. Oh, she done it. She done it good. ci avviciniamo ancora un pochino e saltiamo ancora un paio di anni, siamo nel 71, siamo al 5 luglio del 71 e siamo in Italia, dove va in scena il concerto più corto in assoluto dei Led Zeppelin, al Vigorelli, al velodromo del Vigorelli, 26 minuti di musica e una pagina di storia non proprio bella della musica per l'Italia. Allora, per quello del Vigorelli era la tappa italiana del tour estivo del 71 dei Led Zeppelin, che avevano appena finito di registrare a marzo il loro quarto album, che sarebbe uscito a novembre, e in mezzo avevano deciso di fare una serie di date in Europa per trainare il lancio di questo nuovo album. Quella in Italia era quella appunto del Vigorelli, dove si teneva il Cantagiro, manifestazione popolare italiana degli anni 70 e poi anche 80, dove sul palco sarebbero passati quelli che erano i nomi di punta di quel momento della musica italiana. Il pubblico però non era proprio d'accordo su questa commistione, ma non era solo quello il problema era anche i biglietti troppo alti, un prezzo veramente alto dei biglietti rispetto a quelle che erano le aspettative, o comunque sia che veniva giudicato alto anche per quelle che cominciavano a essere, diciamo, delle tensioni notevoli a livello sociale. Non solo quello, molti del pubblico dice che fossero fomentati da agitatori, insomma c'è stato un po' di problemi. Molte persone sono rimaste fuori dal Vigorelli, dove entravano solo 10.000 persone, solo, che non era proprio solo, però 10.000 persone entravano. Di quelle 10.000 che sono entrate, molti erano fans dei Led Zeppelin, quindi quando si sono trovati davanti Bobby Solo, questa gente qui, non hanno gradito, e tipo a Bobby Solo gli hanno tirato una banana sul palco. Beh, ci può stare. Ci poteva stare. Lui diceva il ciuffo banana. Invece Gianni Morandi ha proprio deciso che non saliva sul palco, che non era aria, e restava fuori, e tutto sommato ha detto era meglio così. E i Led Zeppelin, quando iniziano a suonare, attaccano con Immigrant Song, fuori dai cancelli, alla fine era un centinaio di persone che era rimasta fuori, cominciano a spingere per sfondare le porte. Siccome c'era stata la minaccia di tafferugli, era nell'aria che sarebbe successo qualcosa. C'erano 2.000 poliziotti mandati in tenuta antisommossa, pronti a caricare. Questi cercano di sfondare, i poliziotti rispondono caricando e lanciando dei lacrimogeni. Forse non era il caso di lanciare lacrimogeni, perché questi si riversano completamente all'interno del Vigorelli come il pubblico comincia a calcarsi sotto palco, dove c'era, diciamo, la zona più sicura. Succede che gente viene pestata, insomma, le cose che succedono in questi casi quando la situazione sfugge un po' al controllo. I Led Zeppelin comunque continuano a suonare e vanno avanti con il loro concerto, richiamando alla calma il pubblico e dicendo che comunque non sta succedendo niente, state calmi, sono solo dei fumogeni. Fuori continuano i tafferugli, continuano a venire tirati dei fumogeni, dentro l'aria si fa praticamente irrespirabile, i Led Zeppelin continuano a suonare, nonostante Plant fosse preso da attacchi di tosse continui e Page invece lacrimasse proprio, si dice che fosse non vedesse dalle lacrime. Attaccano What a Lotta Love e questi di fuori riescono a sfondare e a entrare dentro il Vigorelli, e lì succede di tutto. I fumogeni vengono lanciati anche all'interno, succede veramente un discreto casino. a quel punto addirittura salta la corrente. Cioè, come non bastasse, potrebbero anche averla tolta, guarda. Visto col senno di poi, potrebbero averla tolta. A quel punto i Led Zeppelin non possono più suonare perché non c'è più corrente e vengono letteralmente presi dal tour manager, dallo staff loro e portati nell'infermeria del Vigorelli, dove saranno rinchiusi fino a quando la situazione non si sarà calmata. Di fuori intanto succede quello che succede in questi casi, la polizia che carica, loro che rispondono e questi diciamo scontri proseguono per tutta la notte a Milano, spostandosi in varie zone della città. Quindi non è stata una situazione semplice, che comunque si è risolta poi alla fine senza grossi danni, e questo già è un dato positivo. Il giorno dopo Robert Plant farà la sua dichiarazione ufficiale e dirà che non si vuole più esibire né a Milano né in Italia in generale, cosa che per un decennio succederà e coinvolgerà questa onda di, diciamo, di ostacismo nei confronti del nostro paese. Coinvolgerà molti artisti internazionali che non verranno a suonare in Italia per paura di questi episodi. È chiaro che stava crescendo anche da noi una protesta, una tensione sociale che coinvolgeva anche la musica, e questo è quello che succedeva. Questo, diciamo, questo blocco si romperà attorno agli anni 80, prima con il concerto di Patti Smith, che però, diciamo, e poi nel modo definitivo con quello di Bob Marley a San Siro, dove finalmente la musica internazionale, una musica mai sentita dal vivo in Italia, arriva e riempie lo stadio di San Siro, cosa non da poco. L'Italia non era più abituata a questo tipo di spettacoli, non aveva più visto stadi pieni di gente per la musica internazionale dagli anni 70, e invece qui ce l'abbiamo. Il pomeriggio viene aperto, siamo nel 27 giugno dell'80, e il pomeriggio viene aperto, diciamo, da Pino Daniele e Roberto Ciotti, accompagnati alla batteria da Tony Esposito. E tra l'altro dimostrano al pubblico che anche in Italia ci sono dei bluesmen veramente bravi. E poi salgono sul palco un gruppo scozzese che fa da apripista ai The Wailers, e finalmente alle 10:30 arriva Bob Marley e lì comincia una grandissima festa, perché Bob Marley si trova di fronte a un pubblico che risponde con grande energia a questa sua presenza, e da parte sua, nonostante non fosse perfettamente in salute purtroppo, risponde con una performance che è stata giudicata una delle migliori di Bob Marley, e noi ci vediamo un pochino di Vigorelli e un pochino di Bob Marley. Sì, ci vediamo anche un pochino di Vigorelli. Purtroppo non ci sono grandi cose, abbiamo trovato uno che se l'era filmato e il nipote aveva, ce lo sentiamo perché non ci sono immagini, però c'aveva delle fotografie e quindi... Yeah. è lo zio no. Nel 71 con il primo vero concerto di benefico della storia della musica, che è il concerto per il Bangladesh, che si terrà il 1 agosto del 71 al Madison Square Garden. Diciamo due cose su questo concerto: viene organizzato da George Harrison su suggerimento di Ravi Shankar, che gli fa presente quello che stava succedendo in Bangladesh dopo le alluvioni dell'anno prima, cioè una forte emergenza sanitaria e umanitaria nei confronti dei bambini. George Harrison si fa carico di questa causa e in sole 5 settimane riesce a mettere su questo concerto, che porterà sul palco da Eric Clapton a Ringo Starr a Bob Dylan, tantissimi artisti. Non diranno di sì invece John Lennon e Paul McCartney, che rifiuteranno l'invito dell'ex collega. Saranno raccolti sia col concerto che con il singolo Bangladesh di George Harrison, $243,000, che sono una bella cifra per l'epoca, e saranno dati all'UNICEF per aiutare i bambini nel coso. Peraltro, i diritti del documentario che è stato girato e del singolo Bangladesh tuttora vengono stornati all'UNICEF tramite una fondazione creata da George Harrison e vengono dati al Bangladesh. Quindi è rimasto tutto cristallizzato come nel 71. Questo è stato il primo grande concerto di tipo benefico, che sarà in qualche modo ripreso come concerto nell'85 con il Live Aid, che sarà invece il più grande concerto nella storia a scopo benefico, e che vedrà diciamo come fautore sarà Bob Geldof, il leader dei Boomtown Rats, e che a Natale dell'anno prima aveva fatto uscire un singolo dove raccoglieva il meglio della musica europea, Do They Know It's Christmas Time. E l'America aveva subito risposto con un progetto analogo, sempre contro la fame nel mondo, e aveva dato vita a We Are The World, che era la stessa, diciamo, un'altra canzone che raccoglieva Quincy Jones e Michael Jackson, sì, e che facevano questa, avevano raccolto il meglio della musica americana, avevano fatto questi due singoli e già lì avevano raccolto tantissimi soldi. Però non basta, Geldof dice, bisogna fare un evento che porti la gente al concerto, e questo evento deve essere il più grande possibile. Per questo si svolge su due continenti, a Londra e a Filadelfia. È la prima volta che succede che lo stesso concerto si svolge su due continenti, quindi sono 13 ore di concerto consecutive. Saranno 69 gli artisti che si esibiranno, e qui ci sono veramente tutti. Cioè, al Live Aid abbiamo visto passare veramente da Mick Jagger, David Bowie, The Queen, e Bob Dylan, Clapton, le Zeppelin, chi più ce n'ha più ne metta, ce n'è veramente, ci sono veramente di tutti, Madonna, gli U2, Elton John, Phil Collins che mantiene, Bowie, mantiene il primato di essere l'unico che si è esibito nello stesso giorno su due continenti diversi. E continua a mantenere, a tenersi stretto questo primato. Non gli basta questo grandissimo, diciamo, risultato, e anche lo show televisivo con maggiori spettatori che è stato visto nel mondo fino a questo momento. Si apre dalla Live Aid la stagione dei concerti benefici, che saranno tantissimi, di cui parleremo semmai un'altra volta, ma ci vediamo un pezzettino di video, perché non voglio sequestrarvi. Led Zeppelin reunion. This is the one that a lot of people have been waiting for. I'm not going to give away the whole set, but I will tell you this. That's rock and roll, and they're doing Stairway. Let's go to the stage. A questo concerto, la prima volta che si riuniscono su un palco per suonare insieme, quindi sembrava, poi con Phil Collins alla batteria, insomma, vabbè, che una bella riunione. Si va a un concerto anomalo? Sì, sì. Concerto anomalo, un concerto senza pubblico, e quello ce l'hanno regalato i Pink Floyd a Pompei. Su questo concerto si racconta solo sono nate miliardi di leggende, di storie, e raccontiamo solo quella più famosa, forse, però anche più carina, che è il fatto che quando loro hanno organizzato il set per fare questa ripresa, non avevano abbastanza corrente per alimentare tutto quello che gli serviva, al che hanno fatto chilometri di prolunga per mettere la presa dove gli davano abbastanza corrente, e questa più lunga era sorvegliata giorno e notte da dei volontari perché avevano paura che si attaccassero e fregassero l'energia elettrica. No. Gli fregassero l'energia elettrica e quindi di rimanere poi a metà del set. Questo però ha fatto sì che le riprese durassero meno giorni di quelli previsti, dovevano essere 6-7 giorni, saranno solo 4, e che vengano poi concluse e finite a Parigi, in studio a Parigi e a Londra. Ci vediamo un pezzettino di Pompei. No, non tutto, un pezzettino. E anche lo scorciamo, perché se no... concerto dei Deep Purple in Giappone, oltre aver dato vita al miglior live della storia della musica, è che aprono la strada verso l'Oriente per le band dell'Occidente. Fino allora nessuno aveva mai pensato a aprirsi una, diciamo, uno sbocco nel mercato dell'Oriente, invece con questo riescono a farlo. Programmano una serie di date nelle città più importanti del Giappone. Quelle che saranno registrate sono quelle di Osaka e di Tokyo. La particolarità è che vengono registrate con un mix a 8 piste, e cioè non ci puoi rimettere le mani, quello è e quello resta. E non ci saranno sovraincisioni, non ci saranno non ci potranno rimettere le mani, e quindi quelle serate sono cristallizzate lì per sempre. Quello che è anche importante è che la band in quel momento lì vive il suo momento d'oro, e effettivamente quello che dà vita a queste spettacolari live è perché è una band coesa, forte e che sul palco riesce a trasmettere veramente molto, perché è nel suo momento principale. Te metti il video, ma se ne vede proprio pochi secondi, se no non ci si fa. Perché non è in Giappone. Ah, vi dico che il video non è in Giappone, perché non esistono registrazioni video, ed è la scaletta del Giappone. E da rimanca, quindi lo sacrifichiamo un pochino. Decide di fare il più grande show televisivo andato in onda su tutto il mondo, ed è il suo live Aloha from Honolulu, che prende ispirazione dalla visita di Nixon nel 72 in Cina, che era stata mandata appunto via satellite per la prima volta. E chi sono meno da Nixon io? E chi sono meno da Nixon? E quindi vado e faccio anch'io. Sarà trasmesso in 40 paesi in diretta. La particolarità di questo concerto è che sono due. La prima particolarità è che praticamente andrà in tutto il mondo meno che in America, perché non si erano accorti che il 16 gennaio c'era la finale, c'era il Super Bowl. Ma pensavo che era rimasta la sfida al buffet. La sfida cosa? Attaccata, purtroppo. Che prosciugava tutto. Quella, quando ci manca corrente non si sa come mai. E comunque praticamente non si erano accorti che avevano già venduto gli sponsor, tutti gli spazi pubblicitari per il Super Bowl, e quindi purtroppo non potevano mandare il concerto di Elvis Presley in patria. Cioè, non solo, ma sarà ripreso a aprile, il 4 aprile, neanche il giorno dopo, che uno dice vabbè dai, no, il 4 aprile lo manderanno con calma. L'altra cosa è che siccome Elvis Presley aveva paura che qualcosa non andasse bene durante il concerto, prende tutta una serie di persone, le mette nel pomeriggio in una sala e fa un finto concerto con la stessa scaletta registrato, perché eventualmente mandava quello. Cioè, così. Elvis Presley lo citiamo anche per un altro concerto che è passato alla storia, ma questo molto più recente, è del 16 agosto del 97 a Memphis, è per celebrare i 20 anni della sua morte ed è una cosa secondo me terribile, è il primo concerto con il morto. Cioè invece di essere sul palco Elvis Presley, che chiaramente era mancato 20 anni prima, c'è l'ologramma di Elvis Presley. La cosa secondo me abbastanza singolare di questa è che le date che hanno fatto, che sono durate anni, sono arrivate anche in Italia, hanno sempre fatto il tutto esaurito. Quindi si vede che anche l'ologramma... Ora c'è Frank Zappa. Io trovo il concetto... E questa cosa è stata iniziata con una canzone da Natalie Cole che duettava con l'ologramma del padre. Sarà il futuro, ma io lo trovo un futuro un po' perché siamo antiche. Perché sono ammetto, io sono antica, ma a me l'ologramma. Allora, giusto due secondi di Elvis, ce lo guardiamo. Questo era il concetto, quello però quello io non qualche mese dopo questo concerto, ma siamo a Londra, all'Hammersmith Odeon, dove David Bowie porta la sua porta Ziggy Stardust sul palco e doveva essere un concerto come tanti, invece si rivelerà un concerto storico, perché durante, all'insaputa di tutti, all'insaputa del manager, del tour manager, del produttore, della moglie, di tutti, dei musicisti stessi, sì, non lo sapeva nessuno, lui annuncia che con questo concerto muore Ziggy Stardust, cioè non lo porterà mai più, questo spettacolo resterà a lungo nei nostri ricordi, non perché è la fine del tour, ma perché è l'ultimo spettacolo che mai faremo. E non sono stati molto contenti i produttori, perché avevano già programmato delle date in Canada che hanno dovuto annullare, e questo non è stato una cosa che gli ha fatto molto piacere. C'abbiamo l'audio. Okay. Everybody, this is me. Well, one of the greatest tours of our life. We really. First, I'd like to thank the band. I'd like to thank our road crew, and I'd like to thank our lighting people. Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. While the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. Too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. When you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, oh, oh, oh. You're a rock and roll suicide. Breaks the starting as the sun across the room. spostiamo in Massachusetts nel maggio del 74, quando arrivano le diciamo più importanti, non le prime, perché le prime sono state un pochino prima, però quelle più popolate, di quelle più famose di esibizioni di Bruce Springsteen. Praticamente quelli prima erano concerti più tra amici, cose diciamo più in locali molto piccoli. Qui ora fa il salto di qualità, la critica comincia a seguirlo, e in particolare è John Landau che è presente al concerto del 9 maggio, e in questo concerto lui, dopo questo concerto lui scriverà: ho visto il futuro del rock and roll. E di lì, da questa frase, nasce il mito di Bruce Springsteen. Sarebbe nato probabilmente ugualmente, non è che non sarebbe nato. Però lui ha detto, nel suo articolo scrive, è come se avessi sentito per la prima volta la musica, per capire come l'aveva vissuto lui. Tra l'altro Landau, subito dopo questa recensione, instaura un rapporto con Bruce Springsteen, tanto da diventarne poi il produttore, e quindi diciamo ci credeva veramente in questo artista, che da qui prende il volo e diventa il Bruce Springsteen che tutti noi conosciamo. Il boss. Non ci sono video del concerto del 9 maggio, però c'è un audio che noi sentiamo pezzo. The rose that grows in Spanish Harlem, it's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run, and all the stars are leaving. Yeah, it grows right in the street, up between the concrete. There is a road in Spanish del 77, per la precisione il 7 giugno del 77, e incontriamo un gruppetto così che insomma... Te lo metto sotto fondo? Ah sì, intanto mettilo, vai. Sono i Sex Pistols che decidono... Aspetta. Decidono di celebrare... Ah, li saltiamo? No! Qui ne li saltiamo. sì, li saltiamo, e purtroppo il tempo è tiranno e saltiamo i Queen per mia decisione. Amen, sopravviveremo. Sono in quest'anno devono cancellare l'Anarchy Tour perché glielo impongono, la casa discografica glielo impone, e però siccome è il 25esimo del regno di Elisabetta II, loro decidono di fare questo concerto, di festeggiare alla loro maniera, e la festeggiano con un concerto sulla barca che prendono peraltro in affitto sul Tamigi, la barca che si chiama Queen Elizabeth, perché bisogna essere coerenti fino in fondo. Allora, del concerto non si sente niente, gli amplificatori sono veramente poco potenti, però è un concerto fantastico che passa alla storia. Fanno solo 2 brani, cioè non riescono a fare altro. La polizia li ferma, li sale sulla barca, loro riescono a attraccare, scappano a gambe levate mentre Malcolm McLaren si fa arrestare. ma non è un caso, perché la certamente la pubblicità che gli deriva da questo arresto è stratosferica, mentre gli altri si danno per, alla fuga per le vie di Londra. A Julian Temple, che era stato caricato sulla barchetta anche lui, e quindi ci ha dato questa testimonianza. Questo è l'arresto di Malcolm McLaren, che da bravo volpone ha sfruttato al massimo questa opportunità. Era dei dischi, non per dire, era rimedi. Era il René di Londra. Dei dischi? No, cioè, no, lui di dischi e stava con Vivian Westwood, che aveva il negozio di abbigliamento. Si torna in Italia, si arriva in Italia, siamo nel 78, il 23 agosto, ed è l'ultimo concerto di Mina alla Bussola. Diciamo, l'importanza di questo concerto, oltre al fatto che appunto è un'ultima data comunque sia, è il fatto che da lì in poi Mina non solo non si esibirà più dal vivo, che cosa che hanno fatto in vari, ma non si farà proprio neanche più vedere, non si farà fotografare, non si farà, le copertine sono fatte di disegni rarissime e vanno indietro le fotografie. E in realtà è stato un caso che fosse quella l'ultima serata di Mina, perché doveva avere ancora alcune date, l'aveva già programmate nel 78, aveva fatto 11 serate in cui lei era accompagnata da un comico e poi cantava lei. Il problema è stato che ha preso una polmonite e ha dovuto interrompere queste date. Da lì in poi non si esibirà più dal vivo. La serata, quella che vediamo un video terribile, che proprio me lo metti lì sotto, ma io vado avanti a discorrere, perché intanto, cioè, non si vede veramente niente. Questo non so se cosa sia stato registrato. Certo, c'era meglio l'orogramma. Sì. presenze fantasmali. Sì, è una cosa terribile. Comunque sì, qui ci canterebbe Margherita e quella sera lì a fargli da spalla per l'apertura della serata c'era Beppe Grillo. Sì, per come l'inizio della fine. Questo un attimo, così un tanto dico cos'è quello dopo, che è, ci vediamo veramente un frammento di un concerto che è passato alla storia non per la musica ma per quello che succede, e cioè è Ozzy Osbourne che se magna il pipistrello. E praticamente cosa succede? Che un fan di Ozzy al suo concerto in Iowa, Des Moines, e porta un pipistrello che aveva preso a scuola morto 2 settimane prima, quindi neanche, cioè, cosa schifosissima. E come glielo lancia sul palco come omaggio. Ozzy, cioè, chi lancia fiori? Chi lancia reggiseni, no? Esatto. Perché hai visto il genere reggiseni, no? No, a lui gli lanciano il pipistrello. Oh, forse Ozzy gli piace. Questo lo prende in mano e sente questo pipistrello che è mummificato. Crede che sia un pazzo. Non capisce che è un pipistrello vero e, convinto che sia un pupazzo, lo addenta e gli strappa la testa. In quel momento esatto si accorge che è un pipistrello vero. Lo prendono, lo impacchettano, lo portano in ospedale di corsa, gli fanno la bellezza di 10 punture antirabbica, perché non è proprio salutare addentare un pipistrello, figuriamoci un pipistrello mummificato da 2 settimane. E lui poi dirà nelle interviste, nella sua autobiografia, che quel sapore di pipistrello morto non riesce a toglierselo dalla bocca, e noi li crediamo. Vediamo una mentina, diciamo. Ma noi li crediamo, guarda. Fa folklore. Sicuramente. Sì, ma è infame. Devo aver messo un unconscious Bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever, and he picked it up and bit the head off. It sounds going. It's real. Sì. Quello che è rimasto di lui. Sì. Cioè, poveraccio, capiamolo, pensava fosse solamente siamo nel 1982, siamo in Inghilterra, siamo a Shepton Mallet e va in scena la prima edizione del WOMAD. La World Music viene portata sui palchi occidentali da un'intuizione di Peter Gabriel, che pensa che dalla musica del mondo la musica occidentale possa solo arricchirsi. Però perché questo avvenga ci si deve confrontare su un palco, deve sentirla dal vivo, deve viverla, e crea questa grandissima utopia che è il WOMAD, World of Music, Art and Dance. E il piccolo problema con cui non aveva fatto i conti è che forse il mondo non la pensava proprio come lui, non era forse ancora pronto. Tra problemi di uno sciopero ferroviario che blocca metà Inghilterra, tra problemi di tempo meteorologico che non è stato clemente con il WOMAD, in realtà si rivela un grandissimo disastro. Nonostante ci fossero nomi importanti sia a livello, diciamo, nazionale inglese, come Echo and the Bunnymen o Simple Minds, che subito hanno aderito a questa idea, sia perché l'organizzazione del WOMAD, che vedeva poi in pratica tirare fuori Peter Gabriel i soldi, portava portava questi artisti da tutto il mondo, soprattutto dal Sud America, dall'Africa, dall'Australia, da questi posti, dall'India, dall'Estremo Oriente, meno, però cioè, già l'India non era proprio un viaggio economico, pagargli il biglietto per venire in Inghilterra a suonare. Un disastro finanziario di quelli epocali che riduce veramente Peter Gabriel sull'orlo della bancarotta. A salvarlo saranno qualche mese dopo, il 2 ottobre di quell'anno, i suoi ex compagni di viaggio nei Genesis, che si riuniscono a Milton Nice e danno vita all'unica reunion dei Genesis che è stata mai fatta. Reunion che non si chiamerà mai Reunion, ma si chiamerà Six of the Best, e che vedrà arrivare all'ultimo tuffo anche Steve Hackett, che si unisce, che era in tournée in Sud America, e si unisce a loro per le ultime due canzoni, creando la line-up originale dei Genesis. Vediamo un micro video del primo WOMAD, che era un festival molto interessante, ma che non ebbe il successo sperato. È stato quello, è stato che cioè poteva morire, se i Genesis non venivano in soccorso di Peter Gabriel, moriva lì. Per fortuna sono venuti in soccorso, l'hanno salvato dalla bancarotta, e tuttora abbiamo l'WOMAD e soprattutto l'influenza di queste musiche portate veramente da noi. È stato perché sennò era sull'iniziativa del singolo artista che andava a cercarsi quella musica che gli interessava per quel disco. Invece così ti confronti con tutto, poi dal tutto nasce qualcosa comunque di interessante, però purtroppo se non c'erano i Genesis che lo salvavano. Quindi Gabriel è in debito con i Genesis? E in questo caso sì, molto. Ma infatti la storia vuole che lui a fine concerto, cantando Selling England by the Pound, si sia messo a piangere proprio, non è riuscito a finirla, per ringraziare quelli che gli erano venuti in soccorso. Perché lì l'ha vista veramente brutta, non è che... Soldi ce n'è più. Ma neanche proprio nulla, proprio nulla. Lì non c'era veramente... Si era raschiato il fondo del barile, ecco, proprio. Ci aveva scommesso tutto. ci aveva scommesso tutto, una scommessa che ha vinto, secondo me l'ha vinta, perché comunque sia, se la musica del mondo oggi è il nostro patrimonio, si deve a quel giorno lì, non è che... Non solo a quel giorno, non solo a quel giorno lì, ma se... ma era andato lui a cercarsela. La differenza è quella, è il portare la musica a confrontarsi con la tua realtà, è portarla dentro la tua realtà, non andare te a cercare, perché allora l'aveva fatto anche George Harrison, no? Quando... ma è diversa, è una ricerca personale di un qualcosa. Invece questo qui è un contaminare. L'invito. È un contaminare che può portare a qualcosa, come anche no, il più delle volte, siccome parli ad artisti, porta a qualcosa. La differenza, il passo successivo è stato quello. Saltiamo. Saltiamo quello dopo, okay. E passiamo per forza e passiamo al 21 maggio 92. Siamo ad Assago, abbiamo scelto la data di Assago, ho scelto io la data di Assago perché è quella, sì fallo vedere, perché è quella italiana, di un tour che ha cambiato il modo di fare spettacolo, che è lo Zoo TV degli U2. Ha cambiato l'atteggiamento degli U2 nei confronti della musica, nel senso che loro hanno deciso di essere qualcosa di più e di comunque di diverso dai quattro ragazzi di Joshua Tree, tanto che hanno dichiarato che con lo Zoo TV loro vogliono abbattere Joshua Tree, l'albero di Joshua. E purtroppo. Con due T, anzi con tre. Purtroppo. Però glielo devi spiegare a Bono. Per fare questo cambio di passo loro devono comunque ricorrere alla tecnologia, a quello che è quello che sono gli anni 90. Gli anni 90 sono la prima guerra del Golfo, sono la tecnologia, la televisione, e loro cercano di portare tutto questo sul palco e lo fanno con un mega palco con 36 schermi che rimandano le immagini della guerra del Golfo, ma rimandano le immagini del concerto stesso, e lo fanno anche con questa caricatura che fa di Mephisto di Bono, e riprendendo anche in qualche modo l'ironia dei primi tour. I primi 8 brani sono tutti nuovi e poi ovviamente inseriscono in scaletta i successi di sempre. Diciamo che da qui in poi la tecnologia entra sui palchi dei concerti e a portarcela sono gli U2 per primi. Concerto ufficiale che incontriamo è del 1 luglio 2017 ed è a Modena Park di Vasco Rossi. A prescindere che ci piaccia o meno Vasco Rossi, a me non piace molto, abbiate pazienza. A prescindere da questo, è un concerto dei record, perché a tutt'oggi è imbattuto il numero di spettatori che sono stati presenti a questo concerto, che sono 225.173 paganti. Ma un numero dell'Italia o no, del mondo, mondiale, del mondo. Mondiale. No, non è. Questo è il più visto. Ho scelto un video che fa vedere un po' di pubblico, di cose, per capire quello che era Modena Park. Di fatto sul concerto c'è poco da dire, è un concerto di Vasco, punto. Con la sua scaletta di sempre, presenta sempre quella scaletta, non manca neanche la dedica a Massimo Riva, c'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti e c'è soprattutto questo enorme... enorme pubblico che assiste al concerto. Che ha sbaragliato i record precedenti e per ora non è stato. E quindi è già finito. Una di queste canzoni ce n'è di peggio, poi dopo se mi bambino, però. Possiamo dirlo di tanti. Però insomma, questo andava citato come concerto. Adesso c'è l'ultimissimo concerto. Allora, questo era l'ultimo. No, pensavo fosse il Malanima. E non ci abbiamo il video, perché io non ce l'ho video del Malanima, tra l'altro. E ce l'ha Fabio. Esatto, io no, non ho su YouTube c'è di tutto. Qualcosa forse sì. Però vabbè, no, l'ultimo concerto che ho scelto è... Non ha scritto non lo devi la dire. Storia. Non ha scritto una pagina di storia, in realtà. Però è storico a suo modo. Lo posso dire? Sono i Cramps al manicomio a Napa State Mental Hospital e sono l'unico gruppo che si sono esibiti in un manicomio. No, anche Leonard Cohen molte volte. Ah. Vabbè, ma potevi lasciare a loro il primato? No, ma loro si sono e loro poi lo fanno piace. No, fanno proprio coerentemente, guarda. Altro che loro si sono esibiti con i matti sul palco. Certo, anche se erano solo loro. In effetti il cantante non si capisce. I'm quando salgono sul palco loro dicono all'audience: abbiamo fatto 3000 km per essere da voi oggi, e a loro gliene importa tantissimo, e infatti li prendono a urli così, e comincia questo delirante concerto. Guarda. Dove tutti salgono sul palco. È un grande happening. Sì, tutti insieme. Quando ne parla dopo il concerto il cantante Lux Interior, mi chiedono: ma come vi siete trovati così? Cioè, ma in realtà in realtà se fossero stati dal pubblico di un nostro concerto normale nessuno li avrebbe notati, e con quello ha detto tutto. Li avrebbe notati. Beh, si confondevano tra la massa, capito? In comunità probabilmente ne ho uno di paziente che un po' lo ricorda. Canta, suona tutto il giorno, registra, si mette su Facebook, vuole partecipare a X-Factor, quindi più o meno. Si vede questo, forma una band. Guarda quello lì vestito da donna! Ma come mai fece questo concerto? Chi è che diede permesso per questo? E la cosa bella è quella, non si sa. Loro chiesero: si può venire a fare un concerto? No. E gli dissero: ma perché no? Non era mai uscito. Sì. Per voi di questo anche io ho cantato una volta davanti a 200, una volta a 400 handicappati mentali. Il miglior pubblico quello sì. Nella vita. Sì. Guarda, cioè, nel senso, voglio essere offensivo. Bellissimi, io. Sono bellissimi. Cioè, ma poi se non dicevi che era un manicomio, era una cosa normale, un concerto normale di Cramps, sì. O anche di un altro gruppo. Come si chiama? Cramps? Cramps. Bellissimo. Sì, ma... Brava, fatto bene. La chiusura. Il prossimo appuntamento è il 3 di maggio, quindi abbiamo un bel po' di stacco, e sarà a cura di Carlo Puddu che ci racconterà il White Album. Bravo, grazie. Si ritiene, si torna. Che dove?